as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui, oggi al Pane e Rose, puntata speciale. Oggi non abbiamo ospiti, ci sono io. E voglio parlare di Ucraina. Chiaramente le televisioni, i giornali stanno parlando della guerra. Il Pane e Rose è la trasmissione degli operai metalmeccanici. Noi vogliamo parlare dei lavoratori dell'Ucraina. Perché questa guerra ha anche a che fare con quello che è successo negli ultimi anni, e soprattutto c'è anche la lotta di classe che c'è stata questi anni in Ucraina, e non solo in Ucraina, ma anche in Russia, anche in Bielorussia, anche altre zone insomma intorno all'Ucraina. E noi crediamo che quello che è successo ha anche a che fare con le varie difficoltà che ci sono avute in questi anni, anche per quanto riguarda quello che è successo nel mondo del lavoro. Certamente stiamo assistendo a una guerra imperialista che Putin sta facendo all'Ucraina. Abbiamo spiegato anche nell'ultima puntata che ci sono responsabilità gravi dal governo Poroshenko fino all'ultimo, di aver fatto delle misure che hanno reso la vita difficile per milioni di ucraini, e questo ha acerbato gli animi fino a portare alcune zone a separarsi. C'è stata una guerra fratricida, ma fondamentalmente tra fascisti e antifascisti, per quanto riguarda la guerra del Donbass. Una parte della popolazione, quella di Crimea, che non si è riconosciuta nel governo Poroshenko. Ma ci sono stati anche i lavoratori che hanno avuto un'importanza fondamentale in questi anni, e quello che è successo in Ucraina insomma si è ripercosso anche per quanto riguarda quello che è accaduto ai lavoratori ucraini. Noi pensiamo che i lavoratori uniti, non solo dell'Ucraina ma della Russia, della Bielorussia, della Polonia, di altri stati intorno all'Ucraina, potrebbero fermare questa guerra. Ora io vorrei partire dal 2014. Abbiamo concluso l'ultima puntata proprio raccontando un po' quello che è successo. Abbiamo parlato della strage di Odessa, però vorrei essere un po' più chiaro su questo. Quella strage, l'attacco al sindacato di Odessa, non è stato un vero e proprio attacco al sindacato come associazione, come ente. In realtà i ragazzi che si sono rifugiati nella casa dei sindacati, che comunque vedeva anche dei sindacalisti che erano lì a lavorare, erano ragazzi che avevano voluto festeggiare il 1° maggio, che Poroshenko aveva da poco abrogato, e il 2 maggio erano rimasti lì a presidiare il sindacato in pochi. Il 1° maggio non avrebbero mai potuto fare quello che hanno fatto il 2 maggio. Il 2 maggio erano in pochi, e gli ultra, insieme a gruppi di estrema destra, hanno approfittato del fatto che erano in pochi e hanno attaccato il presidio che era stato organizzato da questi ragazzi antifascisti, che la stragrande maggioranza erano studenti e militanti di estrema sinistra, i quali poi sappiamo tutti che si sono rifugiati nella casa dei sindacati e hanno incendiato la casa dei sindacati, con più di 42 morti, tutto quello che è accaduto dopo. Soprattutto io penso che la cosa più grave di quell'episodio sia stata la reazione del governo. Timoshenko ha dichiarato eroi quelli che hanno messo fuoco e bruciato vive le persone. C'è una trasmissione televisiva, appena il giornalista lì ha annunciato che erano morti tutta quella gente, il bruciato vive, hanno applaudito a quel pogrom, per non parlare degli anni successivi in cui le vittime, quando nel 2 maggio, anche fino all'anno scorso, venivano commemorate, permettevano ai fascisti di manifestare e rivendicare quella strage fino all'anno scorso, mentre le madri continuavano a piangere i loro figli, si vedevano questi fascisti che manifestavano sempre là vicino, davanti alla casa dei sindacati, rivendicando quella strage. Ecco, non è un paese democratico, però l'Ucraina, vogliamo anche parlare nello specifico di tutto quello che è successo all'interno dei sindacati e all'interno dei lavoratori ucraini. Il vero attacco al sindacato non ci fu a Odessa, ma ci fu poco dopo, il 26 giugno 2014, in cui ci fu il più grave attacco al sindacato per quanto riguarda in Ucraina, che faceva capire anche quello che sarebbe successo negli anni successivi. Settore destro, il partito di estrema destra ucraino, durante il congresso a Kiev del 26 giugno 2014 della Federazione di Sindacati, sono intervenuti in massa cercando di fermare il congresso, bruciando bandiere, picchiando militanti sindacali, bruciando anche una parte dell'edificio che ospitava il congresso. E fortunatamente a difendere il congresso i sindacalisti avevano chiamato tutta una serie di veterani della guerra in Afghanistan ucraini, ex militari, i quali hanno difeso quasi in mano militare il congresso, ma comunque sono riusciti a fermare, a non permettere l'elezione dei vari dirigenti, chiedendo tranquillamente, dicendo che loro, la metà di chi era lì dentro doveva uscire dal sindacato. Cioè loro chiesero al comitato centrale dei sindacati ucraini di epurare tutti i dirigenti che avevano a che fare con i partiti comunisti oppure il partito delle regioni di Yanukovych, tra cui era una grossa maggioranza di questi dirigenti. Ma fondamentalmente il sindacato confederale uscì da questa, si salvò fisicamente, e i militanti non morì nessuno, dei sindacalisti furono tantissimi feriti ma non morì nessuno, ma sindacalmente fu un disastro, perché il settore destro fece una cosa che non fu assolutamente perseguitata dalla polizia. La polizia arrivò molto in ritardo e il governo anche lì applaudirono tutti il fatto che i sindacati erano visti come qualcosa di corrotto, e questi militanti di estrema destra volevano creare nuovi sindacati. Ad esempio, già erano nati i sindacati indipendenti ucraini, ad esempio dei minatori, in cui il partito che noi si può tradurre in patria, nazionalista di destra, meno di destra del settore destra, aveva già organizzato e si era infiltrato, che nel 2014 stava cercando di dividere i minatori del Donbass, che fondamentalmente il 4 maggio si erano sollevati con scioperi, poi diedero in realtà loro vita alla resistenza in Donbass. E di questo io penso che dobbiamo affrontarla la questione. La questione del 1 maggio e del 9 maggio, ossia le due feste che Poroshenko abrogò, io sostengo, ma lo sostengono anche molti compagni nel Donbass, che furono fondamentalmente quelle due cose, che è l'attacco alle sedi sindacali del 2 maggio, fecero sì che i lavoratori del Donbass scesero in sciopero. Scesero in sciopero per prima, insieme. In realtà c'erano state già delle avvisaglie già del 25 aprile, dunque 10 giorni prima c'erano state delle insurrezioni politiche contro il nuovo governo. Fondamentalmente i lavoratori del Donbass furono i primi a scioperare ad oltranza contro il governo di Kiev, non riconoscendo quel governo, riconoscendo come un governo fascista, un governo che non rappresentava le tradizioni della lotta di classe operaia, soprattutto della zona dei minatori del Donbass, che sono stati storicamente un'avanguardia già dal 1905 in poi, sono stati, ma a livello proprio della storia della rivoluzione insomma russa, sono stati tra l'avanguardia della classe operaia di quel periodo. E lo sono stati per tanti anni, anche nell'89 c'era una forte componente all'interno dei minatori che si sollevò verso i burocrati del Partito Comunista. Insomma, sono stati sempre molto critici, molto indipendenti Non sono mai stati dei lavoratori sottoposti al regime, avevano una grossa organizzazione e ce l'hanno ancora oggi. Io vorrei adesso parlare anche di un'altra questione. Prima di parlare di quello che succede adesso, io penso che sia fondamentale quello che è successo nel 2019. Nella fine del 2019, il 27 dicembre, in Ucraina in questo caso, diciamo che in questi anni di guerra, fondamentalmente all'interno dei sindacati, abbiamo visto sindacati indipendenti, il progetto di settore destro non si è realizzato, quello di creare proprio dei sindacati nazionalisti e di struttura fascista, ma in realtà i sindacati indipendenti ucraini sono cresciuti moltissimo. Però diciamo, quello che è accaduto nel 27 dicembre 2019, io penso che sia una cosa che noi non possiamo non raccontarla. Sappiamo benissimo come sono i nostri mass media, che tendono assolutamente a offuscare tutte le notizie che non sono in linea con quello che bisogna raccontare. Ma io penso che l'Ucraina a fine 2019, inizio 2020, abbia raggiunto la peggiore situazione per i lavoratori mai avuta nella sua storia. C'è stata una proposta di legge che fondamentalmente è riuscita a scontentare tutti i sindacati ucraini. Addirittura sono intervenuti il CSI, la Conferenza dei Sindacati Internazionali, addirittura il CES, che praticamente ha voluto portare questa norma davanti alla Commissione Europea, perché è contrario allo statuto. Infatti oggi l'Ucraina ha chiesto di entrare nella Comunità Europea, ma comunque le leggi che ha dal 2020 sul lavoro sono contro le norme, lo statuto della Comunità Europea sulla questione del lavoro. Addirittura l'ILO, che è l'International Labour Organization, che fondamentalmente, siccome è un organismo internazionale che si occupa di guardare tutti gli abusi che vengono commessi sul lavoro, siccome è internazionale e mondiale, è chiaramente è di manica larga, perché sappiamo benissimo che nel mondo la stragrande maggioranza dei luoghi c'è uno sfruttamento spietato. Eppure anche l'ILO ha definito l'Ucraina all'inizio del 2020 come qualcosa di inaccettabile per quanto riguarda la legge. Insomma, questa legge, la legge più filo oligarca, più filo patronale che c'è in Europa, perché fondamentalmente tutte le cose peggiori che si sono viste negli ultimi anni in Europa, l'Ucraina le ha recepite tutte, nel senso che licenziamenti facili, un aumento degli orari, una diminuzione, quasi azzeramento dello straordinario, per quanto riguarda la paga dello straordinario, i contratti praticamente a tempo, a zero ore, nel senso che puoi essere chiamato anche per un'ora di lavoro, dunque la precarietà più estrema possibile immaginabile, la mobilità dei lavoratori senza consenso, nel senso che chiunque può spostare un lavoratore da una parte all'altra del paese e lui deve adeguarsi a quello che gli chiedono di fare, dove andare, ma soprattutto la cancellazione della contrattazione collettiva, cioè la contrattazione collettiva non esiste in Ucraina, e dunque l'esclusione dei sindacati dalla vita dell'Ucraina. Questa cosa qui ha portato, ripeto, il CSI, l'ILO, il CES, tutti a dire, cioè, questo è inaccettabile. Questo è prima della guerra. La guerra in Donbass è servita tantissimo a far sì che queste norme passassero. In realtà ci sono state delle proteste a parte dei sindacati, ma sappiamo benissimo, con i fascisti sempre al fianco del governo, che ricattano il governo, perché dobbiamo dire la verità, il governo ucraino non è un governo fascista, bisogna essere onesti, ma Zelensky addirittura era stato eletto contro la destra, ma fondamentalmente dai tempi di Poroshenko, ma subito dopo l'Euromaidan, quando c'era anche la Timoshenko, che c'era il governo, quello prima del governo eletto di Poroshenko, cioè nel senso che hanno ricattato in tutti questi anni, con prove di forza, con manifestazioni davanti al Parlamento, tutti i governi. Abbiamo visto che questo è purtroppo è influito anche sulla lotta di classe. Io poi vorrei anche parlare di quello che è accaduto in Donbass prima della guerra. Se prima della guerra in Ucraina c'era questa situazione in cui i lavoratori sono arrivati, c'erano delle leggi super filo padronali, la questione poi del Donbass non è da meno, nel senso che anche in Donbass ci sono stati dei minatori stessi che per anni sono stati la forza, quelli che hanno sconfitto i soldati ucraini nel 2015, che hanno provato a riprendersi le due repubbliche del Donbass. Nel 2020, nel 5 giugno 2020, ci sono state delle proteste molto accese perché praticamente non venivano pagati. Queste proteste hanno portato a una rottura con i governi delle due repubbliche, una rottura che fondamentalmente era impensabile. È solo oggi con la guerra in atto si è ripristinato un legame che c'era tra i governi delle repubbliche e i minatori del Donbass, ma ci sono stati un anno di forti tensioni, hanno resistito per tanti mesi sottoterra fin quando gli è stata promessa che gli venisse data la paga che gli spettava. Non sono riusciti a recuperare tutti i soldi che gli spettavano, però una parte. Questo che fa capire che c'era molto malcontento sia da una parte che dall'altra. Spesso quando accade questo, io non dico che sia l'unica ragione, ma quando ci sono dei grossi problemi, e in Russia sappiamo benissimo cosa è successo prima della pandemia per quanto riguarda la riforma delle pensioni, per quanto riguarda tutte le norme anche sul lavoro, poi post pandemia, con la crisi portata anche dalla pandemia in Russia, del forte risultato anche del Partito Comunista che aveva avuto nell'amministrativa anche in Russia, di nuovo i lavoratori russi che comunque sono rientrati nella scena con manifestazioni e scioperi. Questo fa capire che spesso la guerra è un ottimo antidoto contro la lotta di classe e l'unione dei lavoratori che combattono contro i governi e contro i padroni. Ora io vorrei adesso parlare un po' di guerra, e più che parlare un po' della guerra, della retorica che sentiamo in televisione, io vorrei parlare di quello che sta succedendo nei sindacati in Ucraina. Chiaramente che fondamentalmente i sindacati indipendenti ucraini stanno dicendo che è tutta colpa della Russia, che bisogna comunque sia, che insomma fanno un appello comunque alla pace, ma comunque in realtà fanno un appello a tutti i cittadini del mondo a lottare perché la Russia ritiri le truppe. Però è importante sia l'appello che hanno fatto i compagni della Bielorussia, dei sindacati democratici, quali dicono, insomma, noi siamo dispiaciuti perché siamo fratelli con gli ucraini e con i russi che manifestano, e quello che sta succedendo in Ucraina, visto anche l'appoggio della Bielorussia a questa guerra, loro sono completamente contrari e chiedono e spero che ci sia la pace, anche se hanno contro la Russia sono molto molto diretti, radicali. Ma io penso che l'appello più bello sia stato quello dei sindacati, del Comitato Nazionale del Sindacato di Iniziativa dei Lavoratori Polacchi. Io ve lo leggo così come l'hanno scritto loro. In vista dell'invasione delle truppe russe sull'Ucraina, il Comitato Nazionale dell'OZIP desidera esprimere la sua solidarietà ai civili ucraini, ai sindacati ucraini e ai cittadini ucraini che vivono e lavorano in Polonia. Siamo anche solidali con i cittadini della Federazione Russa che protestano contro la guerra e il militarismo in generale. I conflitti militari servono alle elite finanziarie che si arricchiscono attraverso il commercio di armi e lo sfruttamento delle risorse naturali, così come i governi che costituiscono il loro capitale politico sulle minacce della guerra. L'imperialismo, non importa chi ci sia dietro, è sempre contro gli interessi dei lavoratori, qualunque sia la loro nazionalità. Per milioni di lavoratori la battaglia globale per il potere e la ricchezza significa morte, distruzione e ancora più povertà. I lavoratori stanno combattendo in prima linea in guerre che non hanno iniziato. Le loro case stanno crollando sotto le bombe e i razzi. La settimana scorsa il popolo ucraino è stato scioccato nell'apprendere che i politici e gli oligarchi stavano lasciando l'Ucraina su jet privati aerei noleggiati. I sindacati e le organizzazioni sociali ucraine hanno chiesto la nazionalizzazione delle loro ricchezze e la loro assegnazione per sostenere la popolazione civile. Più di 1 milione di cittadini ucraini vivono, lavorano in Polonia. Il loro numero sta crescendo anche nelle file del nostro sindacato. I lavoratori ucraini soffrono di condizioni di lavoro molto difficili, spesso al di sotto del salario legale e con orari di lavoro non regolamentati. Lo scoppio della guerra porta ulteriore ansia per i cari che hanno lasciato nel loro paese e un futuro incerto. D'ora in poi devono dividere il loro tempo tra lotta per la sopravvivenza in Polonia e il seguire le notizie delle bombe che cadono sulla loro città natale. Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà ai nostri compagni e a tutte le vittime della guerra. Inoltre vogliamo dichiarare che saremo presenti a tutte le manifestazioni contro la guerra. Allora, io penso che questo appello di questi sindacati polacchi sia un appello, io penso, condivisibile e corretto, che mi ha molto molto colpito. Io penso che anche i sindacati in Italia stanno avendo un atteggiamento corretto, spesso sono cacciati di essere con Putin, che non è corretto l'equidistanza, ma io penso che in questo momento la pace sia una priorità, però serve una pace giusta, serve una pace che riporti i lavoratori ad avere un ruolo, a migliorare le condizioni, ad essere protagonisti della loro vita. Bisogna combattere gli oligarchi in tutti i paesi in cui loro ci sono. Gli oligarchi poi sarebbero i padroni, perché poi gli ucraini, i russi sono chiamati oligarchi, ma in Italia sono gli imprenditori, quelli che comandano il nostro paese. Ecco, io vi saluto con questo pensiero e speriamo che questa guerra finisca prima possibile e la lotta di classe ricominci e si possa veramente cambiare tutto il mondo. Un saluto, salve. Мы не хотели воевать. Мы никого не трогали. Мы не бегали ни по каким майданам. И что получили? За что? Мы террористы? Террористы! Да пусть мне про какой город говорят, но про Горловку здесь все ребята поднялись. Песен еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Я уверена, что у меня теперь внук 16 лет, он пойдет сидеть за отца. Вот так. За то, что все так случилось. Мальчик учиться хотел, а теперь вчера звонит мне, говорит, бабушка, я пойду возьму автомат, буду защищать. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые, головы сложили в поле. В бою! Мало того, старше свежей памяти, уничтожать нас, народ. Мы, донбассовцы, шахтеры, заводчане, страдаем. Посмотрите на эти разрухи. За что убили моего ребенка? За что? Он никому слова плохого не сказал. Он никогда никого не обидел. За что? Где же ты теперь, моя вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь?